Davide Rondoni, lo scrittore intellettuale su Avvenire. Sì, ebbene sì, dice, dateci un motivo per canticchiare qualcosa e se no, beh, chiudetelo. L'anno dell'unità potrebbe essere un buon anno per farlo morire. Avvenire che dice chiudete il Festival di Sanremo. Infine voglio fare una citazione della Gazzetta, perché bisogna alzarsi tutti i calciofili, tutti gli amanti del calcio, bisogna veramente oggi alzarsi in piedi, perché si ritira un grandissimo del calcio, uno dei più grandi, Ronaldo. La Gazzetta gli dedica tutto un delle paginone centrale. Ronaldo esce di campo, l'abbiamo sentito anche in GR Sport, tra le lacrime. Dice: finisco la carriera, ma penso a un'azione di gioco, ma non riesco a farla. Tra l'altro la svela anche: soffro da anni di ipotiroidismo, mi rende più lento il metabolismo e mi hanno anche preso in giro perché prendevo chili di troppo, ma ora mi dovranno chiedere scusa. Ronaldo se ne va. Ora è tempo di GR, riprendiamo con Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, alle 8:20. 24 mattino. L'intervista. Eccoci qui alle 8:20, ben ritrovati da Alessandro Milan. Saluto il direttore del Foglio, Giuliano Ferrara. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ben ritrovato a Radio 24. Grazie. Ben riapparso. Bene, grazie. Senta, come ha trovato Berlusconi? È così agguerrito come appare, un po' ammaccato anche? Non lo vedo da un po'. Ci siamo sentiti per telefono, non mi sembra affatto ammaccato, mi sembra piuttosto, beh, insomma, l'ho visto a pranzo la settimana scorsa, ma insomma da 3-4 giorni non lo vedo. Non mi sembra ammaccato, mi sembra in forma. Certo, la pressione giudiziaria e mediatica è molto forte, insomma, è una roba che stroncherebbe un cavallo, però è un cavallo piuttosto forte Berlusconi. A proposito di pressione giudiziaria, oggi c'è il giudizio, la decisione del GIP di Milano. Dovesse esserci un rinvio a giudizio, secondo lei dovrebbe difendersi nel processo Berlusconi, oppure diciamo denunciare come sta facendo l'aggressione giudiziaria? Difendersi nel processo è evidente, anche se lui ha una pregiudiziale, il suo collegio di difesa l'ha messa in campo, di competenza della Procura di Milano a gestire questo processo. Loro hanno, diciamo, l'impressione, che forse è condivisa da un certo numero di italiani, che ci sia un certo accanimento e un certo pregiudizio nei suoi confronti da parte di Ilda Boccassini e dei suoi colleghi. E soprattutto ritengono che il Tribunale dei Ministri sia l'organo, il giudice naturale, l'organo competente a giudicarlo, quindi insomma si batteranno per questo, credo, ma sono cose di dominio pubblico. Senta, perché lei se l'è presa molto con questa manifestazione prima del Palasciarpe e poi ha denunciato questa repubblica puritana, repubblica etica che vorrebbero costruire le centinaia di migliaia di persone? Guardi, che sono andate prima di tutto diciamo hanno cercato poi di nasconderla dopo averla fatta, e non la chiamo gaffe, è molto peggio di una gaffe. Una manifestazione in cui si dà il microfono a un bambino di 13 anni perché inveisca contro l'avversario politico trasformato in nemico assoluto, è una manifestazione bacata. Scalfari, polemizzando con me, ha parlato di legno fradicio invece che legno storto, per usare la metafora di Kant. Ecco, è fradicio, è marcio, il legno di una manifestazione in cui si ricorre, diciamo, a un mezzo così profondamente immorale come quello di far fare un'invettiva piena di odio politico a un bambino di 13 anni. È una forma, diciamo, di manipolazione dell'infanzia che è disonore per tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione del Palasciarpe. E poi, guardi, l'ho detto mille volte, su Repubblica, che è il giornale che ha sostenuto e promosso quella manifestazione insieme a quel club di miliardari di Libertà e Giustizia, tutti rispettabilissimi personaggi, insomma, loro lo hanno detto: bisogna fare fuori Berlusconi senza le elezioni e senza la sfiducia parlamentare, perché su questi due terreni rischiamo di perdere. Sì. E quindi bisogna farlo fuori con un'iniziativa extra parlamentare ed extra istituzionale. Questa iniziativa è quella della Procura di Milano, è la mia interpretazione politica, diciamo, al di là delle intenzioni stesse dei magistrati di Milano, è un fatto oggettivo, ecco. E naturalmente questa è una cosa scandalosa. Questi magari c'hanno anche tutta questa retorica appunto neopuritana e giacobina, che bisogna ripulire il paese, abbattere Berlusconi e andare oltre Berlusconi, perché gli italiani sono tutti rincretiniti, non possono esercitare la sovranità attraverso il voto e devono essere rieducati da una minoranza virtuosa. Però le centinaia di migliaia, qualcuno dice un milione, qualcuno 300.000, non si sa, che sono scesi domenica in piazza, cioè non sono tutti italiani rincretiniti, o sì, oppure... No, sono appunto, io sostengo che gli italiani non sono affatto rincretiniti, che Berlusconi ha vinto le elezioni 3 volte e 2 volte le ha perse, che siamo un paese libero, democratico, dove... felicemente manifesta 1 milione di donne, adesso 1 milione, sempre 1 milione, 2 milioni, 7 milioni, 15 milioni, insomma si esagera magari un po', però erano veramente molte, erano piazze piene, protesta assolutamente legittima. L'unica cosa secondo me discutibile è che diciamo la mistica della femminilità, per dirla con il titolo di un famoso libro della prima grande femminista della terza ondata, è stata agitata come una bandiera in relazione a uno scopo politico, ecco. Invece secondo me le donne in battaglia devono creativamente trasformare il mondo, non abbattere Berlusconi, sono due cose diverse, insomma è più importante la prima della seconda. Lei ha criticato sul Foglio, non è l'unico, anche il giornale, Tremonti, o meglio i silenzi di Tremonti. Che dovrebbe fare Tremonti? Ma guardi, l'ho criticato, a parte che non è... Un po' l'ha criticato, sì. Critica verso il ministro dell'economia. Tremonti ha un immenso potere, perché non c'è più il ministro del bilancio, quello delle finanze, quello del tesoro. Praticamente lui, diciamo, gestisce la politica del governo. Non si fa niente senza il suo visto, il suo timbro, la sua ispirazione, la sua capacità di programma, la sua capacità di inventiva e di progetto. Tremonti ha fatto una cosa importantissima di cui gli sarà reso merito storicamente: ha tenuto in ordine i conti dello Stato dicendo molti no, e a me piacciono le persone che sanno dire di no, per molto tempo e a molte persone, a molti centri di spesa, e ha fatto bene, però non basta, se ci si limita a questo e se non si dà una scossa, una frustata all'economia italiana in termini di crescita, e non una frustatina di quelle, diciamo, facciamo un 50% in più del PIL, cerchiamo di rosicchiare qualcosa alla ripartenza tedesca, ma una grande frustata di libertà economica in funzione di un grande obiettivo di crescita a 5 anni, il 3%, il 4%, se non si fa questo rimarremo un paese in Europa subalterno, rimarremo un paese senza prosperità, senza sviluppo, senza lavoro. Questa è la verità. Lei lo vede un po' titubante. La Germania ha 3,6% di crescita e noi siamo allo 0,8%. Cioè lei lo vede un po' titubante Tremonti? Lo capisco, perché l'Italia è un paese che, se tu dici va bene, cresciamo e diamo una frustata, le lobby, le corporazioni, eccetera, si gettano sul malloppo e lo divorano in 5 minuti, quindi lo capisco che debba anche essere prudente. Però non assente, ecco, non sdegnoso, non sufficiente, non con atteggiamenti di sufficienza e di sussiego, deve lavorare, quello è il suo lavoro, il suo mestiere oggi è la crescita, secondo me. Senta, tornando a Berlusconi, le intercettazioni, ma sono davvero così tutto solo gossip, solo cose per riempire i giornali, o c'è anche qualcosa? Sono molto peggio che gossip, le intercettazioni sono l'espressione di una forma strisciante di autoritarismo. Le intercettazioni sono una vergogna, soprattutto la loro pubblicazione sui giornali, non lo dico io, lo dice esplicitamente Luciano Violante, che non è né berlusconiano né, diciamo, per tradizione politica sua, un garantista. Violante è un magistrato, è stato presidente della Camera, è stato uno dei capi dell'antimafia, ha fatto una politica giudiziaria spesso anche molto severa, molto rigorosa e qualche volta anche, a mio giudizio, sbagliata e illiberale. Però insomma l'ha detto anche lui, ragazzi, non esiste in nessun paese del mondo una situazione di questo genere. La pubblicazione, forse. Un presidente del Consiglio pedinato, spiato, origliato, lui e tutti i suoi amici, per sapere che cosa fanno la sera a cena in casa loro. È una cosa, ma non scandalosa, tremendamente scandalosa, non esiste da nessuna parte del mondo. L'ultima domanda, direttore, è questa: Fini, ma l'avevano data vicina a lei, avvicinato a Fini, come ora Fini ha fondato il partito e dopo un giorno pare già che stia implodendo questo partito. In Italia se hai un po' di indipendenza di giudizio, oppure essendo uno schierato come io sono, ti mettono sempre un'etichetta in più, no? Ardono dal desiderio di mettere. Io ho semplicemente detto questo a Berlusconi per mesi: non litighi i confini, cerchi invece di usare questo dissenso di fini, questa battaglia anche personalistica, anche di carriera di Fini, che ha 50 anni, 56, ha 58 anni e vuole naturalmente costruirsi un futuro, la usi per dare un'immagine più aperta, più istituzionale, più da rassembleur, cioè da unificatore del paese, della sua stessa figura politica. E Berlusconi ha fatto una scelta, secondo me, sbagliata, che è stata quella di portare tutto al calor bianco e alla fine si sono separati. Una volta separati, però, devo dire la verità, Fini, invece di fare le cose giuste, di mettersi da Presidente della Camera, che non si può fare un partito ed essere un attivista politico contro il Presidente del Consiglio e contemporaneamente Presidente della Camera, ed esporre limpidamente un progetto, diciamo, di concorrenza nel centrodestra per la leadership, ha sbagliato. Si è messo a fare dei piccoli giochi politicanti con quel poverino di Pier Ferdinando Casini e con altri personaggi minori della politica italiana, e infatti si è ridotto di rango. La ringrazio, Giuliano Ferrara. Grazie a lei. Grazie per essere stato con noi, il direttore del Foglio, Giuliano Ferrara. E, come dire, noi andiamo in pubblicità e poi parliamo di Lampedusa, gli sbarchi. Problema europeo o problema italiano? Questo è il tema del nostro sondaggio. Votate su radio24.it o chiamateci 800 24 0024. 24 mattino. E allora parliamo degli sbarchi a Lampedusa, 80.000 stimati dal Ministero degli Interni, dal Ministro Maroni. È un problema italiano o europeo? Questo ci chiediamo al nostro sondaggio. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? E come è prevedibile, insomma, come era prevedibile, l'83% di voi dice un problema europeo di cui si deve far carico l'Europa. Vogliamo discuterne con la senatrice della Lega, Angela Maraventano, è di Lampedusa. Buongiorno senatrice, ben ritrovata. Voglio salutare invece da Bruxelles il portavoce di Cecilia Malmström, vale a dire il commissario europeo agli affari interni, il portavoce Michele Cercone, che è con noi. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Per aver accettato l'invito. Intanto Cercone, voglio, so che lei vuole, insomma, passare un po' questa vicenda, ma un po' su tutti i giornali italiani ancora c'è l'eco di questa polemica a distanza tra Unione Europea e governo italiano. Insomma, ci chiarisca questa cosa degli aiuti. L'Italia ha chiesto aiuto, l'Italia non ha chiesto aiuto, è stato respinto. Com'è la situazione? Guardi, la Commissione Europea opera su base di indicazioni degli Stati membri, quindi quando c'è un'emergenza noi siamo a disposizione dei paesi che ci chiedono aiuto, ma soprattutto, siccome sono i governi e le autorità nazionali a conoscere meglio le necessità, noi rispondiamo su base degli input che riceviamo. In questo momento e nell'immediato dall'Italia non abbiamo ricevuto richieste urgenti di intervento, come è successo nel caso della Grecia, che ci ha chiesto delle squadre speciali di guardia di frontiera o in altre situazioni. Dunque siamo all'ascolto, sappiamo che la situazione è davvero grave, siamo pronti ad intervenire, ad aiutare in tutto quello che possiamo sulla base delle indicazioni che l'Italia ci darà e credo stia preparando per noi. Quindi, cioè, al momento lei dice non è arrivata una richiesta ufficiale a dire Unione Europea aiutateci, abbiamo bisogno di questo. Per ora quello che non ci è stato fornito concretamente è una richiesta o una serie di linee sulla base delle quali operare. Le do un esempio, così anche per gli ascoltatori è più facile. La Grecia si è trovata in difficoltà alla frontiera nord con la Turchia perché non riusciva più a garantire la sorveglianza di questa frontiera. Ci ha chiesto aiuto chiedendo il dispiegamento di squadre speciali di guardie di frontiera. Nell'arco di una settimana, di 8 giorni precisamente, queste squadre, che si chiamano Rabbit, sono state inviate sul territorio con la cooperazione e col sostegno di tutti gli Stati membri, con una solidarietà a 27 estesa, che ha permesso di inviare queste squadre. Siamo pronti a fare tante cose, naturalmente non è la Commissione che può individuare che cosa fare all'interno di uno Stato membro, è lo Stato membro che deve darci l'input, ma sono sicuro che questo avverrà anche con l'Italia, non abbiamo dubbi su questo. Sì, tra l'altro oggi il Premier Berlusconi sarà in Sicilia col Ministro Maroni e vorrei dalla senatrice Maraventano, senatrice, lei da tempo, da anni, insomma, si batte per un problema che vede anche in prima persona, diciamo, nella sua isola e che ora si ripropone, intanto con che misure, con che stime, è davvero così una situazione drammatica come vi raccontata dai giornali? Allora, intanto volevo rispondere al portavoce dicendo che già io il 15 gennaio avevo preannunciato tutta questa situazione, quindi non è vero che loro non hanno mai ricevuto, diciamo, richieste. Una previsione lei aveva fatto? No, una previsione. Io conosco bene il territorio, conosco bene tutta la situazione, perché è da 15 anni che lotto con questo fenomeno e la comunità europea non è mai stata presente sul territorio di Lampedusa e non ha mai chiesto che cosa abbiamo fatto finora e come siamo andati avanti finora, soprattutto per quanto riguarda il territorio di Lampedusa. Non sono mai stati presenti, non è mai venuto un commissario sull'isola per capire l'isola come poteva fare ad affrontare questa situazione. Sia io il 15 gennaio che anche il ministro Maroni avevamo già fatto dei comunicati stampa, perché avevamo già capito tutte le situazioni che c'erano in Tunisia, ma non abbiamo mai ricevuto nessun tipo di risposta. Quindi non è vero che la comunità europea avevate la detto, guardate europea, che sta... mi perdoni, sì. Io voglio finire il mio intervento. Dica. La comunità europea in questi anni si deve far carico, e non si è mai fatto carico di questo fenomeno, e si deve far carico perché sicuramente il nostro paese non può affrontare una situazione così drammatica, e noi non possiamo affrontare questa situazione da soli. Quindi volevo dire al portavoce che la commissaria non ha mai chiesto per questo fenomeno, per questo dramma, soprattutto questo, perché questo è un dramma, non è il fenomeno che c'era prima, sono due fenomeni completamente diversi. Il primo era un fenomeno di immigrati clandestini, questo è un fenomeno diverso rispetto, questi sono rifugiati che stanno scappando, non si sa ancora da che cosa stanno scappando, sì. Questa è una situazione molto diversa, quindi in questo caso non si può aspettare 15 giorni, non si può aspettare 20 giorni, perché siccome i lampedusani stanno affrontando un problema serio, questo è un intervento che loro, se hanno intenzione che di devono dare fare aiuto subito al nostro paese, lo devono fare. Ma subito, vediamo, non possiamo aspettare vediamo se dal, giorni, sì, no, vediamo se dal portavoce dottor Cercone c'è la possibilità che Cecilia Malmström possa venire per esempio a Lampedusa, è un qualcosa che è preventivato. Ma guardi, intanto se mi permette una precisazione, sì, senza nessun tono polemico, è proprio per una questione personale, io sono stato con il vicepresidente Barrò, commissario agli affari interni dell'Unione Europea, il 13 marzo 2009 a Lampedusa, quindi insomma cerchiamo di essere anche di rimanere legati ai fatti. Non solo ci sono state varie visite, c'è stato un grande interesse, ma ci sono anche progetti sui centri di Lampedusa che sono stati interamente finanziati dall'Unione Europea. Credo che informare correttamente gli ascoltatori sia il primo obiettivo, e lo ripeto senza nessun tono polemico, ma stiamo facendo molto, abbiamo fatto molto e abbiamo intenzione di fare molto. Abbiamo finanziato parte delle attività all'interno del centro di accoglienza, soprattutto per quanto riguarda le ONG che si occupano di richiedenti asilo. Siamo in contatto con le autorità italiane perché vogliamo e siamo pronti a dare aiuti concreti. Noi abbiamo degli strumenti, questi strumenti sono chiari e sono quelli che ci assegnano le nostre competenze e quello che gli Stati membri hanno assegnato alla Commissione. Siamo pronti ad utilizzarli, siano strumenti finanziari, siano strumenti di intervento con uomini e mezzi, siano eventualmente nel quadro di Frontex e delle operazioni Frontex. Credo che gettare la croce su Bruxelles dal lunedì al venerdì e poi chiedere l'aiuto dell'Unione Europea il sabato e la domenica sia controproducente per tutti. Io, senatrice Maraventano, intanto c'è anche il tema di... perché la Lega spesso, e anche lei, è sempre stata a volte critica contro gli sbarchi. In questo caso la situazione, lei ha detto, è un po' diversa, cioè sono persone che presumibilmente fuggono dalla Tunisia, dalla situazione del Maghreb che vediamo, chissà ora l'Egitto se porterà anche altri sbarchi. Come ci si dovrebbe comportare in questo caso? Un'accoglienza a tutti, uno smistamento? Sicuramente in questo momento la situazione è diversa, quindi una sorta di accoglienza si deve dare, ma comunque dobbiamo identificare queste persone, dobbiamo capire perché non ci possiamo fidare, diciamo, perché ci potrebbero essere delle situazioni. Noi sappiamo benissimo che su queste cose la criminalità organizzata non guarda mai, diciamo, sta sempre dietro, e quindi vogliamo capire se fra queste persone ci possono essere anche dei criminali, quindi dobbiamo comunque identificare in parte queste persone. In questo momento, se voi sapete, sicuramente avrete qualcuno sul territorio di Lampedusa. Sì, sì. Non sono chiusi, diciamo, sono liberi, stanno girando per l'isola, fortunatamente sono tranquilli, ma dobbiamo sempre vigilare perché non possiamo, diciamo, dobbiamo identificare queste persone prima di metterli nel territorio. E comunque il ministro ha presentato una richiesta ben precisa alla Comunità Europea, che penso che, perché il ministro l'ha mandata ieri ufficialmente, ha mandato un documento dopo le richieste che aveva fatto precedentemente, ha mandato un documento che il portavoce sarà a conoscenza del documento. Quindi il governo italiano ha presentato delle richieste ben precise, queste persone devono essere accolte, sì, ma comunque devono essere identificate. No, ma è chiaro, se possono rimanere nel nostro paese rimangono, se non possono rimanere nel nostro paese non rimangono. Anche perché la condizione di rifugiato politico è singola. Sicuramente Lampedusa non può affrontare questa situazione da sola. Lampedusa inoltrerà delle richieste ben precise sia allo Stato italiano che alla Comunità Europea, perché è un fazzoletto d'isola. Noi non possiamo, non siamo in questo momento nelle condizioni, l'isola non è nelle condizioni di affrontare un fenomeno di questo tipo, e quindi anch'io, ma guardi, futuro, i provvedimenti, farò le mie richieste. Ma infatti guardi, le richieste, perché, guardi, le richieste, sì, me le dice tra un attimo, dopo il tra, perché io so che sono anche interessanti di tema di dibattito, cioè richieste per esempio di agevolazioni fiscali eccetera, ma ce le dice tra un attimo, devo dare le informazioni sul traffico e riprendiamo da lei, da qualche ascoltatore anche. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, per l'84% dei nostri ascoltatori che continuano a votare su Radio24.it, il problema è un problema, un'emergenza europea. Voglio sentire Mauro dalla provincia di Firenze, che ci ha chiamato l'800240024. Mauro. Sì, buongiorno. Dica. A lei e ai suoi ospiti. Senta, io durante i telegiornali ho assistito a delle interviste fatte a queste persone che vengono via dal Maghreb. Sì. E alcuni hanno espresso il desiderio di congiungersi con dei familiari, amici, eccetera, chi in Francia, io ho sentito in Germania, e mi domandavo, ma avete considerato che si tratta di un'emergenza umanitaria, non c'è niente di illegale a questo punto in tutti i paesi del trattato Schengen, e volevo sapere come mai non si pensa di preparare, di approntare delle navette che, una volta espresso il desiderio di andare in Francia, queste persone si portano alla frontiera francese. Ho capito, Mauro, ma non è che ci sono dei pacchi postali, voglio dire. Intanto bisogna vedere se hanno il diritto di, se faranno una richiesta, no, se hanno il diritto di essere rifugiati politici. Una volta appurato tutto questo, e se la Francia non li vuole, per esempio, perché la Francia ha una politica abbastanza dura a dire dissuadere dal partire, per esempio. Cioè, non è che uno sa, può portare da una parte all'altra una persona se è ben ricevuta dall'altra parte. Non lo so, cioè, nel senso, lei li vorrebbe mettere su delle navette, dice, lei vuole andare in Germania, navetta per la Germania. Lei vuole andare in Olanda, navetta per l'Olanda. Questo vorrebbe fare, ma... All'Italia è il più semplice di tutti, ma loro, il loro desiderio è di andare in Francia, si portano in Francia. Si portano in Francia, va bene, grazie Mauro. Voglio andare a Mantova, da Orlando, buongiorno. Buongiorno. A mio parere, no? Cioè, secondo me, al di là dell'urgenza oggettiva, cioè, la questione secondo me è tutta politica, perché ovviamente la Lega si è ritrovata in una situazione molto più grossa di sé da gestire, e ovviamente non potendo fare brutta figura con il popolo padano, ok, dicendo che comunque adesso può accogliere chiunque, ha scelto di sollevare il problema in sede europea. Voglio anche chiedere dell'opportunità per chiedere alla senatrice, sì, cioè, voglio sapere come fate ad accertarsi che non lo so, che le persone che arrivano in Italia abbiano dei precedenti penali in Tunisia. Ecco, visto che questo sarà un problema di casellario giudiziario in Tunisia non esiste. Certo, senatrice Maraventano, questo è un problema, cioè come fare a gestire, a sapere chi è un criminale oppure no? Mi sembra che noi abbiamo già una legge ben precisa che dobbiamo identificare queste persone, quindi sicuramente si identificheranno e questo è il progetto che il nostro paese sta portando avanti. Queste persone verranno accolte, verranno sistemate in alcuni alloggi. Infatti oggi proprio il ministro e il nostro presidente stanno andando a Catania per vedere di trovare una struttura idonea per sistemare queste persone, e poi verranno identificate sicuramente, perché noi dobbiamo capire chi sono, perché voi sapete bene che tanti criminali sono scappati dai carceri. Senta, dobbiamo capire se in mezzo a questi gruppi ci può essere qualche infiltrato criminale. No, che ma noi certo, siccome abbiamo il nostro Mariano Maugeri da Lampedusa che abbiamo sbrandato, Mariano, grazie, l'ha inviato nel Sole 24 Ore. Ciao Mariano, ovviamente. Buongiorno. La senatrice Maraventano, ci dica che cosa vuole lei per Lampedusa, cioè defiscalizzazione. No, guardi, io non voglio approfittare di questo fenomeno per chiedere le cose. Però qualche richiesta lei l'ha fatta. No, io ho fatto le mie richieste perché noi non abbiamo un ospedale, non abbiamo le scuole, non abbiamo l'acqua, non abbiamo nulla, nel senso io è da 20 anni che lotto per avere queste cose a Lampedusa, sicuramente la colpa non è dell'Europa, sicuramente la colpa non è dei governi, sicuramente la colpa non è della regione, sicuramente la colpa non è degli enti locali, però non qualcuno ci sono. La colpa ce l'ha, quindi io è da 20 anni che chiedo di avere aiuti seri per far vivere dignitosamente i miei cittadini e quindi cioè, queste sono queste sono ormai da tanti le anni, richieste quindi, io no, mi faccia dare però un attimo la parola a Mariano Maugeri. Mariano, c'è oltre alla senatrice Maraventano c'è Michele Cercone che è il portavoce di Cecilia Malmström, il commissario europeo agli affari interni, che ti ascolta. Quanto è distante Lampedusa dall'Europa, ti chiedo, e qual è la situazione, se effettivamente è come l'hai descritta anche tu, di emergenza concreta che si vede sull'isola? Sì, l'emergenza è concreta, ma mi colpisce la differenza di chiave di lettura che dà la senatrice rispetto a quella del suo sindaco, che ieri sera ho incontrato in aereo da Palermo a Lampedusa e mi faceva una rappresentazione sì grave, perché appunto il paese, la città, l'isola è stata invasa appunto da questi 5.000 immigrati, ma anche, come dire, sdrammatizzava. Nel senso, cioè, lui sostiene che in realtà i tunisini non solo si stiano comportando molto bene, almeno fino a questo momento, ma pare che abbiano disponibilità di contanti anche in cifre elevate e che siano andati in giro nei ristoranti a mangiare, a comprare generi alimentari e quindi non abbiano dato adito a problemi. Ieri sera però è intervenuta una ordinanza del comune che vieta la vendita di alcolici, non so se la senatrice ne ha conoscenza. Questo probabilmente per evitare nei prossimi giorni anche problemi di questa natura, visto che la stragrande maggioranza degli immigrati tunisini sono uomini e giovani e quindi potrebbero anche abbandonarsi, come dire, all'alcol. Ecco, mi colpisce come mai il sindaco minimizza e non pensa ci siano problemi possibili anche di delinquenti, lui sostiene che siano tutti bravi ragazzi, almeno la stragrande maggioranza, invece la senatrice è molto più allarmata. E questo non lo so, senatrice, che le risulta, cioè col sindaco? Sento, ma lì vi sento pianissimo, no, dice mi dovete perdonare. No, Mariano Maugeri dice che il sindaco De Rubeis è più tranquillizzante, a dire non vedo grandi problemi per ora sull'isola, si stanno comportando bene, insomma. No, ma io non è che ho detto che in questo momento si stanno comportando male, perché sicuramente se si comportavano male avrei inoltrato delle richieste molto più importanti rispetto a quelle, diciamo, che ho inoltrato in questi giorni. Io ho detto che in questo momento queste persone sull'isola si stanno comportando bene, sono andati in giro per l'isola, non è successo nulla fortunatamente, ma dobbiamo comunque identificare e vedere se in futuro magari ci potrebbe essere la possibilità di qualche infiltrato. Io non ho mai parlato che in questo momento sull'isola si sta vivendo un momento terribile su quel punto di vista. Io ho semplicemente detto che la mia isola non è pronta in questo momento ad affrontare una situazione del genere, perché non abbiamo un ospedale, perché abbiamo carenza di acqua, perché abbiamo delle situazioni che è da 20 anni che sono sulle quali lei si batte. Io mi devo fermare, ringrazio dalla senatrice Angela Maraventano della Lega, il nostro Mariano Maugeri del Sole 24 Ore a Lampedusa e Michele Cercone che è stato con noi, portavoce di Cecilia Malmström, il commissario europeo agli affari interni. Continuate anche su Facebook, continua la discussione sia su Lampedusa sia sull'intervento di Giuliano Ferrara, risponderemo alle critiche ovvie, continue, va bene. Così come ringrazio Elisabetta Fusconi e Alessandro Longoni in redazione e Peter Bescapè in regia. Che dire, ci ritroviamo domattina, scriveteci 24 mattino @radio24.it.